allora parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Vorrei fare un appello a tutte le mogli, amanti, compagne, fidanzate, compresa la mia. Per San Valentino non rompete i coglioni con regali, cene e cazzi vari. Io invece scommetto, caro Parenzo, che tu sei già pronto, pronto a festeggiare pure questa inutile ricorrenza del San Valentino. È molto semplice, essendo il mio compleanno ve l'ho festeggiato io. Perché il 14 è il tuo compleanno? Esattamente il 14 febbraio. Cioè il 14 è il tuo compleanno, il giorno di San Sono Valentino. Sono nato alle ore 23 del 14 febbraio 1976. Strano che qui all'ingresso del Sole 24 Ore non ci sia una lapide o qualcosa che lo ricordi, che napoletano non fa. Mi auguro che il direttore faccia un pezzo per scrivere questo pezzo di storia della radio. Ma io non ho capito una cosa, ma compleanno di Parenzo, Parenzo si può fare male della trasmissione, trasmissione radiofonica vocale, quella della trasmissione vocale, quella di vocale. Io non ho capito. Il 14 febbraio. Festeggi anche San Valentino? Beh, è il mio. Cioè, fai un regalo a Natania? Ancora. Fai un regalo alla tua fidanzata, sì o no? Mi aspetto di ricevere regali. Io darò amore quel giorno, come do tutti i giorni dell'anno. Quel giorno lì mi aspetto amore, però sì, farò anche una cena di San Valentino. A parte che è domenica. Com'era amore? I palestinesi? I palestinesi? Palestinian Wonder Love. Israeli Bible Wonder War, diceva Nemer Ahmad, che era l'ambasciatore palestinese in Italia. Tu sai oggi che i parlamentari, i pazzi non ci sono solamente tra i parlamentari italiani, anche in Israele c'è i personaggi bizzarri. Sì, beh, certo. Allora, alla Knesset, apro in questo modo, che è il parlamento israeliano, alla una Knesset, deputata ha detto che ho visto. In realtà i palestinesi non hanno diritto, non vogliono, non possono avere uno Stato, perché la pronuncia, non esiste la lettera P nell'alfabeto. Ma è un argomento. Ma vai a fare il culo. Come un argomento? Argomento valido. Ma non è una cazzata. Si sono messi a ridere tutti. Sì, ma è un argomento, no? Cioè, siccome nell'alfabeto non so che arabo, non so l'alfabeto che arabo. Non c'è la lettera P, non peraltro nemmeno nell'alfabeto ebraico. Cioè, infatti noi lo chiamiamo Israele, infatti. Abbiamo fottuto tutto, io lo chiamo Israel, non Palestinian. Ah, voi lo chiamate Israele? È Israel. Israele, Eretz Israel, terra di Israele. La cosa incredibile. Abbiamo fottuto tutti con questo metodo linguistico, capito? Comunque. Vabbè, adesso parliamo di cose serie. Cioè, parliamo di Gasparri. Parliamo di Gasparri. Ogni giorno Gasparri, ogni giorno la gente torna a casa il weekend, eh? Gasparri. Allora, Gasparri questa volta se l'è presa con i Pooh. Con i signori Pooh. Ma perché fa la guerra a tutti sto Gasparri? Che però mi piace perché come noi fa la guerra a tutti. Ma no, ma capito, ma i Pooh, perché i Pooh? Uno dice prenditela con la Cirinna. Gasparri come la zanzara, questo è buono. Sì, Gasparri come cioè nemici ovunque. Con la piccola differenza che lui fa il deputato e il legislatore dice, no, e noi facciamo presidente del Senato. Ah, tra l'altro, sì, è vero. Vice presidente del Senato. Allora, durante il Festival di Sanremo Gasparri ha notato alcune dichiarazioni fatte dai Pooh, ma ormai diciamo che essendoci anche un eccesso di dichiarazioni a favore delle coppie di fatto, sono anche inutili ormai queste dichiarazioni. No, infatti, perché se lo dice uno, va bene, fa scandalo. Quando tutti i cantanti portano il nastrino, fanno la dichiarazione... Controproducente. Alla fine diventa una cosa anche inutile, no? Diventa una cosa rituale, ridicola. Comunque, sentiamo quello che hanno detto i Pooh innanzitutto. Credo, non mi ricordo chi l'ha detto, se Red Canziano o qualcun altro. Mandate. Anche le unioni civili, questa questione ha quelle non arrivano dopo, noi abbiamo fatto PR nel 76, per cui per noi non arrivano dopo. Ognuno ha diritto ad essere felice. Che non vuol dire un cazzo, ognuno ha diritto a essere felice. Sì, come no? Dire, non esiste una sola famiglia, ma esistono tante famiglie. Insomma, sì, Facchinetti su questo, signor Facchinetti, grande padre. Facchinetti senior. Senior. si sta parlando di diritti civili. E nessuno può togliere la possibilità o togliere la felicità a qualcun altro. Anche qui si può obiettare, io sono a favore anche oltre la legge Cirinà, come sapete ogni volta lo devo ripetere per puntualizzare, se no mi rompono le balle. Però non è che tu non sei felice se non hai i diritti al matrimonio o il diritto alla... non sei felice lo stesso, diciamo. Io conosco un sacco di omosessuali felicissimi che non gliene frega una mazza del matrimonio. Poi ci deve essere, secondo me, il matrimonio, ma si può essere felici lo stesso. Ma questa è una parentesi. Cosa ha detto Gasparri quando ha sentito queste parole? Ha detto: sono scappati dall'ospizio, diventano conformisti, ora annanna con la badante. No, sì, contro Gasparri. Gasparri. Poi questa mattina, credo, non so dove, la Reghettira non ha replicato, però ha detto che sono conformisti, vabbè, che in parte è anche vero, però loro esprimono quello che pensano, no? Cioè il fatto che siano arrivati dopo gli altri non c'entra niente. Questo conformismo, per cui a Sanremo se uno che canta non ostenta il braccialetto, la bandiera carda multicolore è come si è messo al bando, lo trovo, mi obbliga, è possibile a questo punto anche a me a mettere. Ecco, a me. No. Vai, vai grande il papillon, no, arcobaleno, no. Allora l'ho comprato, io ritengo questa ostentazione esagerata una forma di conformismo. Sarà possibile avere un'opinione? Vabbè, chiudiamo questa vicenda, diciamo, penosa. Triste. Ma triste anche, devo dire, questa cosa continua. Che bisogno c'è di chiedere ai PU cosa che ne pensano delle unioni civili? Perché? Ma fateli cantare, basta, no? L'ennesimo ospite che parla delle unioni civili, basta. Cioè, mi fate passare dalla parte di quelli che odiano questa roba, sì, qua. No, cioè, sì. Mi fate veramente passare dalla parte di Giovanardi, di Gasparri, eccetera. E che cavolo, basta. Fateli cantare, non rompete i coglioni. Lo sappiamo. E sulle unioni civili, peraltro, gli italiani non è che la pensano così in maggioranza, per esempio sulla io me ne fotto, sull'adozione. Allora, Renzi ha tirato fuori, diciamo, che ha fatto? Che ha fatto sulla vicenda della CEI, no? Di Bagnasco, del voto segreto. Qui gliel'ha detto, qui sì, è stato forte, bisogna sì, dire. Sì, gliel'ha detto, dire. Un po' gliel'ha detto, il voto segreto lo decide il Parlamento, non la CEI. Bello, un po', bello, buono. Un po' qui. l'ha detto, dai. Perché il voto segreto non lo decide il Parlamento, lo dico con tutto il rispetto e la stima per il Cardinal Bagnasco, non lo decide la CEI, lo decide il Parlamento. Sì, insomma, buono. Dai, sì, buono, però poteva dire anche di più. Certo, non doveva fare come ho fatto io ieri. Poteva dire vaffa, cioè, ma io non questo... ho detto vaffanculo, io ho detto non rompa il cazzo Bagnasco. Ecco, adesso questo non credo che sia un linguaggio che la Presidenza del Consiglio possa, come dire, sottoscrivere. Ragazzi, però io non ne posso più. Allora, leggo sul Messaggero di oggi, la cosa è stata anche confermata, credo durante la trasmissione di Giannino oggi pomeriggio, da un senatore. Non ne posso più. Cioè, nonostante la diaria, nonostante lo stipendio, che diciamo è uno stipendio ottimo quello da parlamentare, i signori del Senato in questo caso sono praticamente, si comportano come i furbetti del cartellino. Cosa fanno per incassare la diaria nonostante escano dall'aula, magari vanno a farsi una passeggiata fuori dal centro di Roma, eccetera eccetera? Lasciano il badge, come si dice, il badge, sì. Dentro, lo lasciano dentro, in modo che naturalmente sono presenti anche quando non lo sono. Questa cosa riguarda circa un 10% dei senatori, dunque siamo 300, una trentina di persone, poco più di 30 persone. Secondo me rispecchia quello che è nel pubblico, ad esempio. Cioè, non è, il Senato non si comporta nei numeri diversamente. Il 10% dei dipendenti pubblici fa come i senatori. Hanno diritto di farlo a questo punto. Sanatoria per i furbetti. Dopo questa notizia che hai letto, va chiesta una sanatoria per quei furbetti, no, che vengono beccati. Sanatoria? Sì, sì. Beh, se in Parlamento fanno così, devono farlo anche nel pubblico. Sanatoria. Ghigliottina perché, per tutti e due. No, perché se lo fanno punizioni anche i senatori, non si può chiedere poi al dipendente pubblico, che invece ne guadagna 1.200, di essere più virtuoso. Sanatoria per quelli che hanno fatto i furbetti. Sanatoria, sanatoria. Ma che sanatoria? Ma quando mai? Comunque ogni mese la furbata dei tesserini lasciati in aula vale 3.500 euro oltre all'indennità fissa. Capito? E questi prendono 12.000-14.000 euro al mese. E poi ve la prendete col dipendente pubblico che ne guadagna 1.200. Ma io me la prendo con tutti e due. Ma sì, ma non c'è dubbio con tutti e due. Però che esempio possono dare questi qua? Tra l'altro, amico mio, oggi si è scoperto che ad Acireale, 62 indagati su 600. Su Acireale, 600 del comune. Acireale in Sicilia. Cioè, tra l'altro, io ho scoperto che il comune di Acireale ha 600 dipendenti. E quanti 600. Sono? E quanti cittadini sono? Non lo so, 600. A me pare una cifra incredibile. Cioè, 601. Il comune di Acireale ha 600 dipendenti. Sì. 62, cioè il 10%, sì. Sempre il 10%, sì. È indagato per questa storia del cartellino. Addirittura, a un certo punto hanno messo le telecamere. No? Mi hanno beccato? No, uno ha cercato di disattivare la telecamera. Ma ha fatto bene a un certo punto. Ha visto la telecamera. Che cazzo riprendi, fratello? Sta cosa. Il Marchese Abate, numero uno assoluto, sempre dice che Roma è invivibile, bisogna trasferire la capitale a Pomezia o la Dispoli. Devo dire che non è una cattiva idea. A Pomezia. Cioè, concentriamo tutti gli uffici di Roma a Pomezia, per esempio. Ovviamente mettiamo più treni, più trasporti, quello che vuoi, e togliamoli da Roma. Sarebbe meraviglioso. Questa è una vecchia idea, quella di portare tutti gli uffici burocratici di Roma, sì, no? Ma perché non a Bergamo, ad no, esempio. In un posto orrendo, Bolzano. Pomezia è un posto orrendo, oggettivo, una delle città più brutte d'Italia. Ma lo so, io ci passo quando vado al mare ogni tanto. Uno sgorbio, diciamo la verità. Pomezia è uno sgorbio. Una merda, no, di città, perché lì una cosa oscena, no, però c'è un negozio esteticamente oscena. Sì, però c'è un negozio che tu che ci dici, perché la signora Natania ogni tanto quando passiamo. Beh, ho capito, ma sti cazzi, che c'è sto, no, perché tu dici sempre a signora Natale. Allora mi viene in mente che Pomezia, io lo associo a questo negozio di vestiti carissimo, peraltro, a Pomezia, dove ogni tanto signora Natania vuole andare a vedere delle cose lì proprio a Pomezia sulla... Ho capito, Pomezia non è un posto osceno, negozio, è un posto osceno dove i parlamentari, sì, starebbero benissimo. Però c'è il villaggio Tognazzi lì, ad esempio. Abate, è bello. Si potrebbe immaginare di trasferire la capitale a Pomezia da un'altra parte. Pomezia, così, magari, no? Allora se non Pomezia, no. C'è Casaleggio, ecco, Maurizio dice la Dispoli, perché va salvata. Una settimana la Dispoli, una settimana. Fitta. Esattamente. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Allora ragazzi, però oggi per voi abbiamo una storia incredibile, che è un'altra delle tante fotografie dell'Italia che vediamo, una pennellata d'Italia. Allora, c'è un grande processo in corso a Reggio Emilia contro l''Ndrangheta, noi non ci interessiamo di queste cose, però ogni tanto ci viene con un rigurgito, non dico, un rigurgito di, così, di civiltà, di, sì, coscienza, sì, sì, no? Allora, in questo processo è accusato anche un signore, com'è che si chiama di cognome questo signore? Un signore calabrese, di Cutri, della città di Cutri. Di Cutri, beh, è importante Cutri. Si chiama Alfonso Mendicino, il quale Mendicino dice delle cose pazzesche sull''Ndrangheta, che non esiste, è accusato lui di estorsione, ci sono altri accusati di reati più pesanti. Un consigliere regionale dell'Emilia Romagna ha... Della Lega? Della Lega, sì, ma potrebbe essere anche di un altro partito, comunque lo diciamo, della Lega, ha messo sul suo profilo Facebook un video di questo signore che si chiama Alfonso Mendicino, in cui dice: noi cutresi abbiamo praticamente insegnato la civiltà agli abitanti di Reggio Emilia, che erano delle bestie. Poi dice a un certo punto: l''Ndrangheta non esiste, se anche esistesse vi ha fatto campare bene per un sacco di anni. Mamma poi mia. Manderemo in onda tutto. A un certo punto questo signore, che si chiama Alfonso Mendicino, lo ha praticamente minacciato, mandandogli degli audio, ma delle frasi tremende. Te ne dico solo una, è tutto in mano alla polizia. Sei un porco e noi calabresi con i maiali facciamo le salsicce, le soppressate, i capocolli, le costate, la pancetta. Questo facciamo dei maiali noi. Questa non è la frase detta. Non è... a Gabriele Del Monte da parte di questo signore che si chiama Alfonso Mendicino. Non è gentile, so che è un po' complicato, ma è abbastanza semplice, soprattutto quando ascolterete questa frase, questo audio, questa voce, che Mendicino della famiglia Mendicino, Reggio Emilia, manda a questo consigliere regionale. È l'audio fortissimo, sentite. Io sono cutrese e me la vanto. Tu sei figlio di una porca o di una scrofa reggiana, perché i maiali, i maiali femmine si chiamano scrofe. Tu sei figlio di una scrofa, cornuto figlio di una scrofa. Tua madre ti ha partorito con una scrofa, hai visto? Perché c'è la faccia di un maiale. Maiale, tua madre è una scrofa. Allora, io non dico niente, eh. Io non dico niente, questo audio possiamo dire che ce l'abbiamo quasi in esclusiva praticamente, questo audio fortissimo. Molto bene. Allora, se non è una minaccia questa da parte di un tizio che è sotto indagine per estorsione, fa parte di una famiglia discussa, la famiglia Mendicino, processo a, per 'Ndrangheta a Reggio Emilia, lui dice che non è una minaccia, non è una minaccia. No. Allora ragazzi, io direi di andare a Torino da Andrea. 800 24 00 24, vai! Ciao belli, allora, la mia considerazione su quel cavolo di Nastrini e Arcobaleno. Sì. Secondo me tutta questa ipocrisia che c'è negli artisti, invece di mettere il Nastrino Arcobaleno, se loro dichiarassero quelli che lo sono, e sappiamo benissimo che a Festival Sanremo ce ne sono tanti, che sono gay. Ma che c'entra, scusi? Non c'entra assolutamente nulla il fatto di essere gay. Allora, cioè, non no, è che è chi espone, non è che chi espone un Nastrino Arcobaleno è gay. Cioè, no, è no, non è quello che voglio intendere. Allora, non c'è nessuno che si dichiara. Ma non è vero, è pieno di omosessuali dichiarati anche al Festival di Sanremo. Magari ce n'è qualcuno che non ha voglia di dichiararlo, ma mica è un obbligo dichiarare di essere gay. Non ce ne sono molto meno di quelli che lo sono. Se loro si esponessero, farebbero molto meglio il movimento che quel Nastrino. Quale movimento, scusi? Movimento dei gay. E lei appartiene al movimento dei gay? Io per niente. Ah, lei per niente. Io non ho capito, ma non c'è l'obbligo di dichiararsi, amico mio, non c'è l'obbligo di dichiararsi. Allora, se non c'è l'obbligo di dichiararsi, non c'è neanche l'obbligo di fare una legge. Vabbè, ma questo che c'è? Perché non esistono allora. Andrea, non capisci un cazzo, dai, su, Marco dalla Spezia. Ciao Giuseppe, ciao David, buonasera. Ciao. Sono due cose diverse, dichiararsi gay e la legge. Ma poveretto, è uno stato confusionale, ha bevuto uno spritz di troppo. Dai. Marco, dai, dimmi. Giuseppe, scusami. Dimmi. Ascolta, io volevo farti un appello, per cortesia non ci fate più ascoltare quel cazzo di Gaspare. Non ne possiamo più. Però amico mio, perché adesso, Gaspare non può parlare di unioni civili essendo un incivile di fondamento. Però quindi, adesso lasciamo perdere questo, tu hai tutto il diritto di dirlo, qui si può dire quello che sì, uno vuole. Comunque non era questa la cosa. Il problema è che Gaspare è vicepresidente del Senato, è esponente, diciamo, di spicco di un partito, Forza Italia. E che facciamo? Noi lo possiamo ignorare. Mettiamo quello che mettiamo, poi ogni tanto lo invitiamo, punto e basta. Noi facciamo la Gasparreide qui. Sì, è bello fare anche la Gasparreide, cioè l'antologia. La fenomenologia di Maurizio Gaspare. Beh, infatti provoca la tua reazione, provoca il tuo disgusto, diciamo, no? Ascolta Giuseppe, non era questo per cui ti avevo chiamato, ho chiamato per dirti se tu hai la consapevolezza di essere effettivamente l'oggetto erotico della gran parte delle donne italiane. Ma non è vero, non è così, a far fede a questo che c'è, ascolta, la testimonianza autentica. No, che ti racconto di un episodio straordinario che mi è accaduto a me. Sì, per carità, dimmi. Vado dal dentista, sì. Sono in sala d'aspetto, Tu sai che normalmente si aspetta sempre un po' di tempo prima di essere ricevuto. Io non aspetto, però va bene, comunque. Assieme a me in sala d'aspetto c'erano due signore, due splendide MILF, fra i 35 e i 40 anni, vestite veramente in una maniera estremamente sensuale, gonna corta. Sì, calze. Amico mio, allora c'erano delle MILF vestite lì nella sala d'aspetto del dentista, dunque? E ascolta, mentre loro erano lì tranquillamente. Ma dove? In che località? In che città? Roma. Alla Spezia. Alla Spezia. E io ero lì nella mia perfetta tranquillità. Avevo mai le stato alla Spezia in vita mia io, eh? Come? No, io non sono mai stato alla Spezia in vita mia. Comunque erano lì peccato, con le cuffiette. Perché allora... perso le Cinque Terre se non sei stato alla Spezia. No, le Cinque Terre sì, che c'è. Mica bisogna andare. Le Cinque Terre e la Spezia sono 5 chilometri. Vabbè, allora. A parte questo. E mentre ero lì tranquillamente, me ne stavo tranquillo, no? Loro di fronte a me parlavano di altre cose. Poi a un certo punto, siccome in sottofondo c'era la radio, e guarda caso la radio era collegata su Radio 24, parte la Zanzara. Meno male. Loro hanno visto me con le cuffiette, no? Sì, pensavano magari che io, avendo le cuffiette, però avevo la radio spenta. I grandi racconti di Marco dalla Spezia. Andiamo alla conclusione, Marco. Andiamo alla conclusione. Andiamo alla conclusione subito. Iniziano a parlare tra di loro. La più, diciamo, più grande in età, la più piccola, dice: guarda, io quando sento Cruciani prendo ogni istinto primordiale, ti dico che gli strapperei i vestiti di dosso, gli farei le cose più pazzesche, e il mio grande desiderio, il mio sogno erotico, sempre loro convinti che io non ascoltassi, sarebbe quello che mentre me lo scopo a sangue, mentre me lo scopo a sangue, davanti a me Parenzo si masturba. No, vabbè. Ma 18:55. Ma è un'immondizia pura. Ma è un'immondizia proprio. Io non so che fare. Pura immondizia. Chiudiamo tutto. Ma chiudi il programma. Ma è la radio del Sole 24 ore. Marco, i grandi racconti di Marco dalla Spezia. Ma racconti, anche inchieste se vuoi, però. Dai, su, Marco. Ma è immondizia. Io sono putrese e me la vanto. Tu sei figlio di una porca o di una scrofa reggiana. Perché i maiali, i maiali femmine si chiamano scrofe. Tu sei figlio di una scrofa. Cornuto figlio di una scrofa. Tua madre t'ha partorito con una scrofa. Hai capito? Perché c'è la faccia di un maiale. Maiale. Tua madre è una scrofa. La Zanzara. Luciani, sono qua ad Atene, sono le 17:42 e c'è già gran voglia di zanzara. Sono in mezzo ai rivoltosi, ai protestanti, ma a me della Grecia non me ne frega niente, nulla, zero, solo la zanzara. Vogliamo solo la zanzara! Allora, caro Parenzo, ieri non abbiamo parlato del fatto che la signora Paola Concia, te la ricordi? La signora Paola Concia, ex deputato del Partito Democratico, scappata praticamente in Germania insieme alla sua fidanzata, perché trattasi di persona omosessuale, lesbica. Non è stata più rieletta e si è trasferita in un paese civile. Adesso, perché l'Italia è incivile. L'Italia è incivile per tante ragioni, una di queste è la mancanza della stepchild. Ma finiscila, smettila. Cirinna! Allora... Cirinna! Cirinna! Un solo grido ci sarà! Cirinna! Cirinna! Giornalismo anglosassone pacato e mai di parte. Mai di parte questo giornalismo della radio, mai. Cirinna! Cirinna! Cirinna! Giornalismo asettico, dove le opinioni non lasciano mai spazio alle emozioni. Sai che Cirinna! Cirinna! Cirinna! Sai che questa tua posizione... È un giornalismo non di parte questo, moderato, tranquillo, che è molto legato ai fatti e non alle opinioni. Cirinna! Avanti tutta! Cirinna! Cirinna! Sei veramente una cosa incredibile. Cioè, mi fai passare dalla parte di Giovanardi e di Gasparri. Questa militanza nei confronti della legge Cirinna, che io considero assolutamente moderata rispetto a quello che vorrei io, veramente la trovo una cosa, però per carità, va bene così. Però siamo arrivati, vedi questo, io, come al solito ti ho interrotto perché tu stavi evocando la vicenda della ex onorevole Concia. Esatto, la quale è andata via dalla trasmissione per alcune frasi dette dalla Mussolini, Alessandra Mussolini. Posso sapere di chi uno è figlio? Il semino, ma quale semino? Allora, adesso io insomma... Questo dico, il semino. Quando posso io? Sono stata zitta. Adesso parli. Ecco. Dimmi da chi nasce questo povero bambino. Ancora. Allora, adesso tu stai zitta e parlo io. Tu stai zitta? Sì, ecco. Sì, corretta, visto che c'è l'omofobia, l'eterofobia. Cavalliamo e parliamo uno per volta. Io non ti ho detto, stai zitta, delicato. Io ti ho detto, parlami del semino, non se ce la fai. Allora, io non parlo di quello che... Io voglio parlare del diritto genetico di un figlio, no. Perché voi non rispondete. Allora, se non posso parlare se ne vanno via tutti, ma che è una sindrome? Ma scusate, io sono molto preoccupata. Io appena parlo la gente anche si apre noi, e se ne siamo va. Abbastanza preoccupati. Allora. Mi dispiace che Paola Concia ci abbia salutato e Andrea a Milano da Luca e Cristian. Allora ragazzi, personalmente del fatto che la signora Concia se ne sia andata via dalla trasmissione non me ne può fregare di meno, e non frega nulla a nessun italiano, ognuno fa quello che vuole. Però ormai è un format, la Mussolini che allontana le persone. La Mussolini che allontana le persone, per quello che dice. La cosa curiosa, per questo ho rievocato questo fatto accaduto ieri negli studi della 7 durante la trasmissione Tagada. Perché l'ho rievocato? Perché sempre su Facebook, che ormai è diventato meglio dei giornali, da tempo questo, la signora Concia scrive tra le altre cose: me ne sono andata via perché non posso sopportare quello che dice la Mussolini, quella che ha il marito che ha patteggiato per prostituzione minorile, punto interrogativo. In un precedente post su Facebook cancellato credo rapidamente, come ci segnala l'amico non leggerlo, in realtà la Concia era andata giù molto più dura e aveva scritto: me ne sono andata via al comizio di Mussolini che non è stato interrotto. Mussolini, quella che ha il marito pedofilo? Punto interrogativo. Credo che poi sia stato cancellato. Allora, però io dico una cosa. Se la Concia, dunque, secondo la Concia, e anche secondo diverse persone, la Mussolini non può parlare di famiglia tradizionale, non può parlare di legge Cirinnà, perché ha questa situazione familiare, cioè il marito che ha patteggiato... Credo se non sbaglio per prostituzione minorile, per la vicenda delle baby squillo dei Parioli, per la vicenda delle baby squillo. Allora diteglielo in faccia, però non è che lo dite su Facebook, lo scrivete su Facebook. Sì, un intervento a gamba tesa. Se avete qualcosa da ridire sulla Mussolini, che secondo voi non può parlare in televisione di famiglia tradizionale, di figli che crescono tra i gay, eccetera eccetera, di utero in affitto, se non è titolata a parlare perché ha avuto in famiglia e ha un problema col marito che ha patteggiato, ripeto, per essere andato con le baby squillo, e allora diteglielo in faccia. Non è che dopo su internet scrivete due frasette così e poi dice: no, sono una signora, non parlo. Se pensi che non sia titolata, diglielo in faccia. Tuo marito ha patteggiato per reati gravissimi perché è andato con le baby squillo, e allora tu stai zitta a non parlare di famiglia, se lo pensate. Tu per esempio lo pensi? Giusto. No, io non penso che... Cioè tu pensi che la Mussolini possa parlare tranquillamente di famiglia? Sì, non è stata... Io penso che la responsabilità penale sia personale. Cioè dici, è un problema del marito, dici. La responsabilità penale è personale, quindi però ci sta nella polemica. Non è lei che si è divorziata, cioè a me stanno sulle balle. Ma non si è divorziata. No, a me stanno sulle balle quei politici del Family Day pluridivorziati che poi vanno al Family Day per parlare della indissolubilità della famiglia. Quelli perché hanno un comportamento loro personale sul loro vissuto. Ma la signora Mussolini che ha subito la vicenda, non è che è responsabile di quel che fa il marito, Cioè su questo no. Però ci sta nella polemica che uno utilizzi questo argomento. Però lo fai a gamba tesa. Ma lo fai davanti alle telecamere, davanti, non è che poi scrivi la frasetta su Facebook. Che cazzo, dai, lo dico all'amica Concia, la conosco da un sacco di tempo. Se hai qualcosa da dire alla Mussolini, diglielo in faccia. Vabbè ragazzi, andiamo a Firenze. Silvia, 800 24 00 24. Fra poco torneremo sulla vicenda di Reggio Emilia dell''Ndrangheta con una cosa incredibile, Silvia. Pronto? Firenze, vai. Sì, Cruciani, ciao, sono Silvia. Allora, io mi dispiace ripetere cose forse ormai già dette, però volevo puntualizzare una cosa che tu hai tirato in ballo ieri sera, sempre con la faccenda della scritta sul Pirellone, Sanremo e quant'altro. Sì, allora, sì. Io credo che bisognerebbe fare un piccolissimo presupposto, cioè una parentesi. Che vuol dire? Ah, bisogna aprire una parentesi. Sì, io odio le parentesi, però aprire la parentesi. Faccio brevissima. Allora, falla le coppie di fatto. Ok, le coppie di fatto sono appunto un fatto che già esiste. Non vabbè, ma che c'entra? Adesso non riapriamo questa discussione, no, dai, no, su. Non è una discussione da aprire, perché evidentemente se ne continua a parlare, tu per primo, stasera è il primo argomento che vabbè, dimmi, dai, veloce, che ne allora, la legge sta soltanto cercando di formalizzare la posizione delle persone. Va bene, così come è formalizzata la posizione. Allora, è molto semplice. Tu non puoi dirmi che non è giusto che la gente si indigni per la scritta sul Pirellone, ma no, la stessa non gente detto. Non si indigna per ciò che accade a Sanremo. Perché la questione è diversa. No, è uguale. Perché, no, ti spiego perché è diversa. Poi ti saluto e lascio spazio agli altri. Paradossalmente, se noi vivessimo in un paese in cui gli etero non avessero il diritto di sposarsi o di avere dei figli, e al contrario quei diritti fossero riconosciuti solo agli omosessuali, allora sì, mi indignerei se il Pirellone si tingesse di un arcobaleno e non avrei nulla da dire. Sono cantante, no, ma sono due cose diverse, dai, forza. Esprime un favore di un diritto negato agli etero, ma non capisci? C'è, ma questo per te è un diritto negato, per gli altri non è un diritto negato, ma il problema non è questo. Il problema è che è la stessa utilizzazione di un servizio pubblico, quello è il Pirellone e quello è il Rai 1, li utilizzano allo stesso modo, per alcuni ci si indigna e per gli altri no. Sergio dalla provincia di Torino, dai. Forza. Ciao Cucciari, Sergio, ciao. Dai, dimmi, Sergio, dimmi. Volevo darti un'informazione così magari fai un po' di indagine giornalistica. Beh, indagine giornalistica, non esageriamo, amico mio. Senti, guarda. Andiamo sempre molto calmi con queste parole, con queste bestemmie. Dimmi, dimmi. Sono rientrato dall'Austria in aereo, sì. Su Malpensa. Sì. E un mio collega che era con me è rientrato sempre in aereo da Vienna su Venezia. Sì. E volevo segnalare che i bravi austriaci riempiono aerei di immigrati, diciamo, extracomunitari. Non ho capito niente, amico mio. Cioè, spiegati con parole normali. Che allora, cosa hai visto su cui dovremmo indagare? Cosa hai visto? L'aereo è stato riempito di immigrati cingalesi, indiani, eccetera, che sono sbarcati in Italia con un volo Schengen, quindi senza nessun controllo. Gli austriaci li hanno imbarcati e noi ce li siamo presi. Ma chi ha detto che sono dei clandestini? Ma non lo so. Ma sono sicuro, guarda, non avevo. Vabbè, Sergio, tu dici che non arrivano solo con i barconi, ma arrivano portati no, da. No, ce li rimandano con gli aerei. Ce li rimandano con gli aerei. Noi indietro. Non controlliamo, capisci? Va bene, che li rimandano pure con gli aerei. Indagheremo, grazie. Massimiliano dalla provincia di Latina, vai. Buonasera ragazzacci, anch'io sì. Sono molto indignato per Sanremo perché non riesco a capire come il servizio pubblico abbia dato giustamente, chi la pensa positiva e chi negativa, la facoltà ad ognuno di mettere il nastrino a scopaleno. Ci fosse stata una persona a partire dal presentatore che il 10 febbraio avesse esposto un nastrino tricolore in ricordo delle foibe. So che l'ha fatto, Conti. Conti. Glielo segnalo che lo ha fatto Conti. Però non c'è stato un personaggio pubblico, un cantante, qualcuno famoso che è uscito. Vabbè, ma ragazzi, ma non è obbligatorio fare nulla, sennò veramente diventiamo ridicoli. Ogni giorno c'è una data da ricordare. Sanremo, purtroppo, diventa ogni tanto il campo per scorribande, per gente che dice la famiglia è uguale, eccetera, eccetera. Una tradizione italiana, sarebbe stato bello pure da parte di qualcuno mettere un tricolore. Ma chi se punto. Ne frega, l'importante sono i fatti, noi i cosi sbandierati così, i nastrini, i cartelloni, ci sono comuni pieni di cartelloni Marò liberi, ma che cazzo fate, ma che cazzo esponete, ma chi se ne frega dei manifesti e dei cartelloni, cercate di fare delle cose concrete, di portarli a casa. Dai, su Ranieri, Pisa, vai. Eccomi. Sempre allora, queste cose. Sarebbe stato bello un appello per i Marò. Oh, ma l'appello per i Marò. Ma ne abbiamo sentiti 200.000 di appelli però, per i Marò. Però sono cose che fanno sentire una comunità unita, vicina. No, dire, non esagerare. Beh, sì, non esagerare. Ranieri da Pisa, dai, Ranieri. Allora, siccome Parenzo ci dice sempre che siamo una cloaca, io gli ho scritto una piccola poesia. Ah, una poesia per Parenzo, bellissimo. La sera parenziana. Vai. Sogno tranquillo nel mio lettino, bello calduccio sotto al piumino. Faccio un bel sogno, sogno cabobo. Cogliamo insieme le more da un rovo. Poi sogno immonde case cadenti. Oddio che incubo, son tra i pezzenti. Ma il più bel sogno riparte al mattino. Bevo champagne servito dal Filippino. Questo non ho capito. È riferito a Parenzo, sì, naturalmente. È una poesia, è un'immagine sì, parenziana. Bello, ciao, bello. Amico mio, stupenda. Ciao. A me la zanzara non mi piace, mi eccita. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La zanzara. Allora ragazzi, a parte il fatto che il centrodestra ha ufficializzato a Roma la candidatura di Bertolaso, che è una specie di suicidio, diciamo la verità, io non ho nulla contro Bertolaso, ma pur di non candidare Marchini per l'opposizione della Meloni, il centrodestra candida Bertolaso, uno che ha, credo, un paio di processi in primavera. Dico solo questo, magari è innocente, ma un paio di processi infatti in primavera. È candidato col centrodestra. Ah, tu dici non è Casa della Libertà. Vabbè, dai. Voglio dire, però al di là di tutto, cioè, che secondo tu me tu stai dicendo che il centrodestra anche candida i banditi. Ah, no, ma non mi pare o i presunti tali, no, o gli accusati, ho detto o che non mi pare ostativo il fatto che questo signor Bertolaso abbia dei processi per quell'area politica lì, non è mai stato un problema. No, questo è vero, questo. Anzi, semmai alle volte diventa un titolo di merito, ma non sono io a dirlo. Questa è un po' travagliesca come frase. Beh, una frase un po' travagliesca, però devo dirti la verità che qualche giorno fa Salvini nei soliti Salvini del lunedì qui a Radio 24. Però secondo me Bertolaso potrebbe essere anche un bel candidato invece. Ah, no, non ha nessuna speranza, dai, su Bertolaso farà qualche in primavera gli arriverà qualche roba pesante da parte dei magistrati e lo faranno fuori, dai, su, questa è la realtà. Comunque, al di là di questo, il punto fondamentale è un altro, che qualche giorno fa Salvini, quando è venuto da noi qui ai lunedì, no, ha detto, gli abbiamo chiesto, Bertolaso, ah, Bertolaso è uno bravo, però c'è un problema, c'è qualche piccola inchiesta giudiziaria in corso, potrebbe essere un casino, no? E poi alla fine ha ceduto su tutti i fronti. Non c'è un politico che si candida, non ce n'è uno, c'è a Roma, interessante, a Milano. Sono passati dall'ex conduttrice del processo Forum. Sì, è vero, questa è buona. A Bertolaso. Questa è buona. Cioè, dal giudice di Forum, cioè, all'indagato potevano Bertolaso. È che Santelichieri non c'è più purtroppo perché è scomparso qualche anno fa. Cioè, sono passati fa, dal finto magistrato. Sono dal finto magistrato di Forum. Là dalla Chiesa. A uno che comunque frequenta le aule, frequenterà, speriamo per breve tempo, le aule di tribunale, che è curioso, diciamo. Ogni tanto hai qualche guizzo. A proposito di aule di tribunale, amici miei, abbiamo da offrirvi le parole di un signore che si chiama Alfonso Mendicino. Già avete sentito qualcosa se avete iniziato la trasmissione con noi, se ci avete seguito dall'inizio. Questo Alfonso Mendicino è un signore che è un originario di Cutro, ma residente a Reggio Emilia, il quale è accusato, credo, di estorsione all'interno di un processo sulla 'ndrangheta che si chiama Emilia, che non si è aperto pochi giorni fa a Reggio Emilia, il quale ha pubblicato un video in cui attacca gli abitanti di Reggio Emilia. Mi faccia capire, ci vogliamo mettere contro anche dei pezzi di presunta criminalità organizzata? Per capirci. Perché dici presunta? No, presunta, lo so, perché ancora... No, la 'ndrangheta non è presunta. No, per questo signore è presunto... Tu dici, mi voglio mettere contro la 'ndrangheta. No, dici. Voglio dire, adesso abbiamo già tanti problemi nel noi come trasmissione, però per carità, andiamo avanti. Alfonso Mendicino, i cutresi e i reggiani. Stupendo, ragazzi, stupendo. Mi volevo precisare... 35 anni fa, quando siamo arrivati noi cutresi a Reggio Emilia, voi avevate il bagno, o sotto avevate il gabinetto, non il bagno, il gabinetto, il lavandino, o sotto il sottoscala, o fuori nel cortile. Siamo arrivati noi cutresi, vi abbiamo fatto le case, le ville, gli appartamenti, vi abbiamo fatti diventare signori. Questo lo sai chi mi ricorda? Mi ricorda la parodia di De Luca di Crozza. Crozza, è vero, cioè è vero. Crozza De Luca che dice, no, sulla sua in Campania. A Salerno. No, in Campania, prima di me non c'era nulla. Mo venite a dirci tutti i giorni sui giornali, la 'ndrangheta, la 'ndrangheta, la 'ndrangheta, la 'ndrangheta. Avete rotto i coglioni con sto 'ndrangheta. Intanto, se anche se fosse stata la 'ndrangheta, vi abbiamo fatto signore, perché voi abitavate, voi a Reggio Emilia crescevate solo dei maiali, voi abitavate in un paese che c'erano solo maiali e facevate la pipì fuori come i maiali. Ah, scusate, cari abitanti di Reggio Emilia, prima dell'arrivo di questi di gente da Cutro, dalla Calabria, facevate la pipì fuori come i maiali? Vivevate come i maiali? Io non lo so, magari ha ragione questo simpatico signore da Reggio Emilia. Magari ha ragione lui, non lo so. Comunque, senti che cosa dice sulla 'ndrangheta, perché è eccezionale, senti. E non rompete più le palle, sempre con sta 'ndrangheta, che la 'ndrangheta non esiste. E se esiste, se dovrebbe esistere, vi abbiamo fatto signori. La 'ndrangheta vi ha fatto signori. A voi che eravate dei maiali, cresciuti con i maiali, e maiali eravate. Vi lavavate una volta al mese. Noi cutresi vi abbiamo fatto signori. Voi facevate la pipì fuori come i maiali. Avevate solo il lavandino e il gabinetto, non avevate neanche la doccia. Non ho capito bene questa fissazione con i maiali. È vero che in Calabria, per carità, amano moltissimo, no, il maiale in tutte le sue forme, ammazzamenti di maiale. Non è carino da dire, dai. Vabbè, adesso te ne esci semplicemente così. Non, no, è carino, dico, non da è una dire. Cosa basta carina. Con quel computer di ma merda, no, sto che scrivendo a Lelio Alfonso, ma che mi ha scritto, frega, che ma ti tu saluta, non ha più il mio numero e mi ha mandato un messaggio. E siamo in diretta? No, è su a Lelio Alfonso, gli ho mandato il mio numero di cellulare. Ancora sulla 'ndrangheta, dai. Perché mi sono rotto i coglioni tutti i giorni, 'ndrangheta, la Reggia tutti i giorni, 'ndrangheta. Oh, la 'ndrangheta è gente onesta, è gente che vi ha fatto delle case, quella è la 'ndrangheta. La 'ndrangheta non spaccia droga, vi ha fatto le case. L'andrangheta non spaccia droga, non spaccia fa altro, droga, già. E non è una società di costruzione case. Stupendo, ragazzi, stupendo. Vogliamo ricordare anche che una volta che un consigliere regionale ha postato questo video, è stato ricoperto di insulti dallo stesso mendicino che ha portato tutto alla polizia per denunciarlo, perché gli ha detto: sei un porco, noi calabresi con i maiali facciamo le salsicce, le soppressate, i capocolli, le costate, la pancetta, questo facciamo dei maiali noi, che non è una frase carina, no, da dire. Bisogna esprimere però solidarietà a questo consigliere della Lega Nord, fammelo fare a me, che in genere con la Lega diciamo un conto aperto, però solidarietà a questo leghista che è stato minacciato. Che è stato minacciato. Però senti che cosa gli ha detto. Un'altra cosa che gli ha detto. Senti, l'abbiamo già fatto ascoltare. Però facciamola ascoltare, che è sempre utile, perché è una frase molto carina, molto bella, molto gentile da dire a un signore, a una persona. Senti. Io sono putrese e me la vanto. Tu sei figlio di una porca o di una scrofa reggiana. Perché i maiali, i maiali femmine si chiamano scrofe. Tu sei figlio di una scrofa. Cornuto figlio di una scrofa. Tua madre t'ha partorito con una scrofa. Hai visto? Perché c'è la faccia di un maiale. Maiale. Tua madre è una scrofa. Ma ovviamente restate con noi, perché abbiamo contattato questo signore. Lo abbiamo contattato, Ogni cosa a suo tempo, caro Parenzo. Lo abbiamo contattato e devo dire che è stata una bellissima conversazione. Bello come tiene queste suspense, no. La gente che non riesce a tornare a casa dalla moglie, dalla sorella, dalla zia, dall'amante, è lì bloccato in macchina e c'è l'amante che chiama e dice: amore vieni che tra poco torna mio marito, amore vieni che sono calda, e lui è bloccato: no cazzo, c'è la zanzara, c'è questo cu di cutro che devo sentire, maledetti, dice, maledetti, maledetti. No, perché è stata una conversazione molto suspense. No, una conversazione facciamolo molto ascoltare dopo le 21. No, dopo le 21 non c'è la trasmissione, scusa. Non c'è. Che cazzo dici? A farlo prima, no? Vabbè, ragazzi, dai, Giacomo dalla provincia di Pavia, dai, Giacomo. Sì, ciao. Dimmi, dimmi, caro, dimmi. Complimenti a Parenzo, io di solito chiamo per dargli solidarietà con tutti gli insulti che riceve, però sì, stasera volevo sapere cosa solidarietà, appunto, prima Parenzo, della trasmissione. Tutta questa solidarietà, questa non è la trasmissione della solidarietà, è già due volte che sento la parola solidarietà in tre minuti. Cioè sento per tre minuti la parola solidarietà e non posso sopportare questa cosa. A proposito di solidarietà, cancello, mi spiace quando lo insultano, no, per il suo bravo, pensiero, perché poi daremo anche il numero di una Onlus che ha creato una televisione ROM, daremo il numero per dare il 5 per 1000, non lo annuncio. Per mille, perché l'ho sentito troppo euforico. Idea Rom Onlus, poi daremo tutte le coordinate, non ti preoccupare. Idea Rom Onlus, 5 per 1000 vogliono. 5 per 1000, ma non, tutte le cose che si rubano già. Non rubano niente. Devo chiedere pure il 5 per 1000. Daremo, cioè, rubano l'ira di Dio. Idea Rom Onlus, devolvere il 5 per 1000, daremo tutto ovviamente, grazie. Cioè, non ho capito, per non bastano i furti? Non una bastano, mano non bastano i furti alla, che subiamo. Quali furti? Il rame, altre cose. Ma che subiamo? 5 per 1000. Hai mai subito un furto di rame? Cioè, io voglio conoscere uno che non sia Rom, che dà il 5 per 1000 a un'associazione Rom. Lo voglio vedere in faccia. Cioè, voglio dire, caro amico mio, tu puoi dare i tuoi soldi a chi vuoi, naturalmente. Però, siccome già sottraggono una piccola parte, sottraggono quattrini, sottraggono quattrini, non quell'associazione, in generale, sottraggono quattrini. Cioè, comunque, parleremo di questa iniziativa. Ma quale iniziativa? Dai, chi c'è? Giacomo, che vuoi dire? Sì. No, volevo dire che onestamente tra l'uso del pirellone con la scritta Family Day e il nastrino, che va bene, non ho visto Sanremo, che hanno indossato alcune persone, alcuni cantanti, c'è una differenza, a mio modesto parere, perché il pirellone rappresenta tutti. Vabbè, se il cantante Pippo sale col nastrino, no, lo decide lui. È uguale, sì, è vero, c'è una differenza, perché lì lo decide il governatore, faccia, lo decide il governatore, però al di là delle differenze è uguale, perché l'occupazione di un suolo pubblico, di una cosa pubblica nel caso del pirellone, l'occupazione di Rai 1 da parte di questo cazzo di nastrini arcobaleno che odio, che non sopporto i nastrini arcobaleno. Giacomo, poi? Nel momento in cui si presenta alla manifestazione del Family Day col gonfalone, prende parte. Nel momento in cui il cantante Pippo... Ma infatti non capisco, io già non capisco i gonfaloni alle manifestazioni, già una cosa incredibile, i gonfaloni, portare il gonfalone, chi se ne frega, perché devi portare il gonfalone? Però vabbè, ma portarlo, io già sono contrario a quella cosa, figuriamoci il pirellone oppure Sanremo utilizzato come tribuna per dire che tutte le famiglie sono uguali. Dai Giacomo, che vuoi dire ancora? Una cosa velocissima, Giovanardi si è contraddetto, perché lui che decanta la famiglia, uomo, donna e bambini, al seguito, quando ha fatto l'esempio che le coppie omosessuali le violenze sono poche decine in tutto il territorio italiano, mentre in quelle etero sono decine, decine, centinaia, se non dire migliaia. Ragazzi, se contraddetto da solo, perché se tu decanti la famiglia, dici che la famiglia perfetta è uomo, donna e bambino, e poi ci sono più violenze, c'è qualcosa che non funziona. A proposito di famiglia, vorrei ricordarvi quello che ha detto quella personaggio che si chiama Veronica Panarello. Loris ucciso da mio suocero, eravamo amanti. Cioè, questa fotografia della famiglia italiana. Rino da Roma, vai Rino. Ciao, senti, io propongo un referendum. Sì, però togli il viva voce, togli l'auricolare. C'ho il telefono normale. Vai, dimmi. Allora, io propongo un referendum. Affanculo dei alla classe politica attuale. Ma non l'ha già fatto Grillo, dai, su. No, io non lo so questo. Però come non lo sai? Cioè, non lo sai che Grillo ha inaugurato la sua stagione politica con il vaffadei? No, perché ho il discorso di tutta la classe politica. Vabbè, amico mio, però qui mancano i fondamentali. Comunque, vai avanti. Ti dico semplicemente che cosa vorrei fare. Vorrei fare un tagliando annuale alla classe politica che governa in quel momento. Se perdono il 51% della popolazione italiana gli dice che se ne devono andare a fanculo, se ne devono andare a fanculo. Vabbè, è una stupidaggine, dai, su. E li rileggiamo. Vabbè, ognuno pensa una stupidaggine, non c'entra assolutamente nulla. Chi l'ha già fatto? Ma quello è stato già fatto, che non rivolto a tutti i politici italiani. Ciao Rino. Vabbè, ma stanno sempre là. Ciao. Stanno sempre là, che vuol dire stanno sempre là? Non vuol dire niente, una frase inutile. Allora, caro Parenzo, introduciamo un ospite di questa sera parliamo un po' di calcio, non solo di calcio, con la frase che ha fatto incazzare molti tifosi della Juventus, e non solo molti tifosi della Juventus, sai che domani c'è Juventus-Napoli. Come dimenticavo. E soprattutto ha fatto incazzare gli arbitri italiani, addirittura ci sono delle cause in corso, l'Associazione Italiana Arbitri, l'associazione che raduna tutti gli arbitri, giusto, vuole portare in tribunale il nostro amico Paolino Liguori, che attualmente è direttore del TGCOM 24, com'è? Cioè è uno dei dirigenti di Mediaset, il quale però parla anche moltissimo di calcio, devo dire anche una persona competente per quello che riguarda il calcio, un grande tifoso della Roma, molto anti-juventino, lo dichiara apertamente di essere anti-juventino, e se ne è uscito su una radio napoletana, e non solo su una radio napoletana, anche durante la trasmissione Tiki Taka, che io modestamente frequento, con una frase che secondo me ha veramente dell'incredibile, perché io non ci posso credere che il signor Liguori pensi fino in fondo questa roba qui. Cioè, non posso pensare, non lo so, risentiamo. Non ho certezze, ma ho una sequenza statistica di pochi errori decisivi di Rizzoli sempre in quella direzione, e non soltanto con una o con l'altra squadra. Quando sbaglia... È in malafede. Perché... No, ma non dico che è in malafede, comunque... Questa cosa della fede, malafede e buona fede, dovete farla finire, dovete farla finita nel calcio, di dire non è possibile che nel calcio ci sia la malafede. Nel calcio ce n'è di più che in altre attività umane. Il Napoli gioca meglio della Juventus, è più forte della Juventus, è in testa alla classifica, c'ha due punti di distacco, è sicuro, matematico, voglio farci la mia scommessa che ci sarà un errore arbitrale allo stadio. No, Paolo, no, Paolo. Direttore, allora, dai. Dite che sono un visionario, dillo. Giampiero Mughini con noi, Giampiero. Eccoci, buona serata, carino. Eccola. Allora, ti fanno schifo queste frasi? No, sai, io conosco Paolino, credo, da, non so, 40 anni. Allora? Lui era un ragazzo irrequieto qui a Roma, signor Straccio. Sono puttanate allo stato puro, figlie di una malattia di cui lui soffre, cioè? Che è una malattia grave, cioè che è l'anti-juventinismo. Cioè, queste frasi, come ho detto lì alla trasmissione che tu hai citato, ma chi ha detto in fondo? Sono frasi che denotano uno stato patologico della propria coscienza, della propria anima, della propria sensibilità. Sono una serie di puttanate che insultano la sua intelligenza, perché poi Paolo se ne intende di calcio. Ecco, appunto. Ma è talmente accecato. Capisci? Quando uno ha una malattia. Ma che ha detto di grave? Scusami, Giampiero, alla fine. Ha detto una frase che per me è rivelatrice. Lui ha detto ci sarà un errore. Vabbè, questo ha fatto una battuta, una scommessa. Vedrete che ci sarà un errore. Ha detto che Rizzoli farà un errore. Quella era una battuta. Era una puttanata, Giampiero. Ma perché non riusciamo a distinguere quando si parla di calcio ci sono questi nervi scoperti per cui una battuta diventa un incidente diplomatico. Non fare il gioco che ti devi opporre, no, perché stiamo parlando dell'inaudito. L'inaudito, addirittura stiamo parlando di una partita di calcio, Giampiero mio, chi se ne frega. Vabbè, cioè, ma che c'entra? Dire... Ma tu non dai importanza. Ma non è vero, è la società, non è il calcio. Però su una cosa ha ragione. Ma adesso non mi interessa di difendere Liguori. Secondo me lì ha fatto una battuta e basta. Ma non è battuta, era serissimo. Non è la battuta. Quando parla di calcio, Liguori è serissimo, non fa mai battute. È più serio quando parla di calcio che quando parla di Berlusconi. Lì scherza palesemente, se no non parlerebbe in quel modo. Quando parla di calcio invece è serio. Esatto, bravo. Quando parla, tu dici, no, ma quello assolutamente. Cioè, quando parla di calcio è veramente. È serissimo. Cioè, crede in quello che dice. Tu dici invece quando parla di Berlusconi. Quelli credono nel Corano. Lui crede in quello che dice, cioè nelle puttanate anti-juventine. Perché, ripeto, un ragionamento si può sempre accettare. Una puttanata no. Tu dici che è proprio ossessionato, è proprio una malattia, una cosa patologica. Detto questo, però, siccome l'ultima notizia. Sì. E quella di cause, di querele, eccetera. Se mi chiamano, io vado in tribunale a testimoniare pro Paolino. Bravo. Gli dico è pazzo, è malato, come dovete perdonare. Cioè, tu dici c'è l'infermità mentale. Cioè, è scriminante. Ma sì, non è in grado di intendere di volere. No, ma come? Lui quando si mette a parlare della Juve non è in grado di intendere e di volere. Io gli voglio bene, diteglielo. Però tu vai in tribunale, tu dici vado a testimoniare per lui perché dici ragazzi non lo potete condannare. Ma è pazzo. Si dovessero condannare tutti i tifosi ammalati di anti qualcosa, io come forse sai credo di essere l'unico giornalista che è stato condannato per aver criticato un arbitro, anzi sicuramente, io poi non parlo mai male degli arbitri, ma questo naturalmente deriva dal fatto che la giuria mi aveva in antipatia. Ma poi questa cosa qui che non interessa a nessuno, francamente solo noi, no? Malati o i malati, no del calcio, no dico questa, questa cosa di chi arbitra, se Orsato o Rizzoli. Ma chi cazzo se ne frega? Cioè al certo punto Liguori oggi ha detto, querelarmi, l'AIA mi dovrebbe ringraziare perché ho caldeggiato la designazione di Orsato per Juve-Napoli. Ma che caldeggi, ma che deve caldeggiare? Non insistiamo contro Paolino che non c'è, dai. No, vabbè, non insistiamo. Parenzo lo difende dicendo che tutto diritto. Parenzo non difende niente. No, Parenzo straparla. Ho detto semplicemente che quella mi sembrava una battuta. Su una cosa invece ha certamente ragione Liguori. Ma su che quando cosa? Dice che nel calcio rimanda per cortesia quel nastro registrato. Non c'è audio, nessun nastro, lo dice Berlusconi. Fai l'audio, quel nastro registrato. Allora? In cui Liguori giustamente dice che nel calcio c'è ancora più marciume che non deve essere lasciato. Se tu non ci capisci niente, ma chi ti ha detto che non ci capisco? Becco? Questa è una vulgata che si dice in giro. Come ma che c'entra è come dire che Berlusconi non si intende di donne. Ma io che c'entra il marciume? Restiamo al punto. Paolo Liguori, che per carità è un amico mio, eccetera, ha detto una cazzata pazzesca. Quello è l'arbitro. Peraltro poi si è fatto male. Molti hanno speculato sul fatto che si fosse fatto male. Tu ci credi a questa cosa dell'infortunio pilotato, Giampiero? Che vuol dire l'infortunio pilotato? Cioè, molti dicono si è fatto. In realtà non si è fatto male Rizzoli, sai che arbitrerà la fine Orsato, no? Ah no, questo lo so benissimo, no, figurati, ma sono cose che non esistono. Ma figurati se Rizzoli, uno che ha arbitrato la finale di non mi ricordo quale cosa importantissima del mondiale, ma sono del mondiale, dell'ultimo tieni mondiale. Presente, tieni presente, Giuseppe, che la civiltà contemporanea è una civiltà che dà a tutte le cretinerie diritto di cittadinanza. Vabbè, questo però è anche una cosa positiva, non è negativo. Io lo trovo anche positivo. Tu lo questo. Trovi positivo. Io lo trovo positivo, altrimenti... Cioè, vivere in mezzo all'imbecillità ti sembra positivo. No, però c'è una protezione nei confronti dell'imbecillità. Tu puoi dire che c'è Giampiero Mughini, io non mi metto tra quelli che non dicono imbecillità, spicca tra l'imbecillità. Ma cioè, sì, ma uno emerge. Che dica questa cosa... Cioè, io ti dico semplicemente, gli pago il cachet, mettimelo davanti. Mettimelo davanti e io lo cucino al ragù, l'imbecille lo cucino al ragù, perché l'unico destino dell'imbecille è di essere cucinato al ragù in un confronto leale. In questo caso si è comportato da imbecille, Paolo. Sì, ma ti ripeto, io non voglio usare questo aggettivo nei confronti di Paolino. Lui è malato. È malato. Devi capire, quindi ci vuole un comprensione, medico, comprensione. Uno psichiatra, uno che intervenga, gli metta la mano sulla fronte. La nostra ambulanza potrebbe servire in questo caso. Torniamo tra qualche istante con Giampiero Mughini. Noi siamo sempre mughiniani, tu un po' meno, Parenzo, non sei molto mughiniano te. No, ma io... Ma di solito tu hai posizioni, per esempio, sulla politica molto simili. Tra poco parleremo di Grillo e dei 150.000 euro. La penso come Mughini su Grillo, anzi, forse anche peggio. Tra Parenzo e Cruciani non riesco a decidere chi è più cretino. La Zanzara. Matti, come ti chiama la mamma quando combini qualche marachella? Cruciani puzzolente. Ma tu hai capito chi è Cruciani? Cruciani cattivo e puzzolentone. Siamo al top. Siamo al top. Qui è... bisogna chiamare telefono azzurro. Uso politico dei bambini. Uso politico dei bambini. Hashtag io sto con Liguori. Forza, twittate. Hashtag io sto con Paolo Liguori. Allora, mi scrive un signore: è stata Noemi a voler portare i nastrini sul palco e alcuni le sono andati dietro, prenditela con lei. Ma io non me la prendo con nessuno, ognuno fa quello che vuole, può portare tutti i nastrini del mondo. Io dico che se la gente si è indignata, qualcuno naturalmente, non tutti, io per esempio mi sono, non dico indignato, ma ho detto che secondo me Maroni non lo doveva fare, cioè di mettere la scritta Family Day al Pirellone, no? Perché ha utilizzato un bene pubblico che è la regione Lombardia, no, che ma non è di ha Maroni. Speso anche elettricità, quei soldi. Vabbè, nostri, quello che vuoi, per scrivere Family Day, per, come dire, opporsi alla legge Cirinà e per sostenere quello che dicono al Family Day. Ma che vergogna. Allora, gli stessi poi dovevano indignarsi perché sul palco di Sanremo è stato consentito l'utilizzazione di un bene pubblico che è Sanremo, pagato da noi col canone, eccetera, eccetera, e con le tasse, questa esibizione dei nastrini. A me non me ne frega niente dei nastrini, ognuno fa quello che vuole, però è la stessa cosa. Non ho sentito l'indignazione. Eppure anche lì il sostegno ad una legge, la legge Cirinà, va benissimo, io sono a favore, però, amici miei, non è che si possono usare due pesi e due misure, no? Dai. Vabbè, siamo con Giampiero Mughini, come avete sentito. Che fa? Ha scritto Liguori? Sì, ma ha scritto Liguori. Che ha scritto Liguori? Dai. Preferisco teppista che pazzo. Siete stalinisti, no, amico mio, adesso siete stalinisti, sì, no, capito? Un po' è un processo sommario. Ma no, tu l'hai difeso, dai. Ha ragione. Preferisco teppista che pazzo. Chi è che ha detto teppista? Non ho capito. Giampiero, tu hai detto teppista, no? No, io ho detto pazzo. Hai detto pazzo. Ho detto malato di un morbo grave. Malato di un morbo grave. Preferisco teppista che pazzo. Vabbè, teppista. Di noi. Ma poi non si può pensare, Paolo, non è un teppista. Ma no, ma io com... la ma questione... Auriemma, cosa pensa di questa vicenda? Che c'entra Auriemma? Ma cosa c'entra? Dai, lascio. No, perché Auriemma. Lo prende in giro. Ma cosa c'è? Conto aperto evoca Auriemma. Ben inteso, invece, sì. Peppino, io sono d'accordo con te. Quelli lì di Sanremo sono degli esibizionisti da due soldi. Sì, sì. Degli esibizionisti da due soldi sentono un vento nel tempo e cercano di sfruttarlo. Poi se tu li metti fronte a fronte e gli dici: ma lo sai di che cosa esattamente stiamo parlando? Non lo sanno, la maggior parte non lo sanno. Poi però quell'altro che mette sul pirellone, quella è veramente, quella è cialtroneria. Uso il termine cialtroneria. Sì, ma io sono d'accordo con te in tutti e due i casi, perché non c'è bisogno che... Ma no, poi ognuno pensi quello che vuole, però diciamo i luoghi pubblici, le scenografie pubbliche devono restare neutre. E devo dire, anche Sanremo è una scenografia pubblica, non c'è niente da fare, perché è un programma su Rai 1 pagato con i soldi nostri. Ma poi sono dei... ma cosa porti? Ma pensa a cantare bene, ma dai, sei pagato per cantare bene, non per manifestare un luogo comune, dai. È così, è così. Senti, volevo sapere quello che pensavi della vicenda dei 150.000 euro di multa. Ma sai, è una sbrucconeria all'ennesima. Tu sai che non esiste, non c'è, non è legale. cioè la Costituzione italiana, sì, che non sarà la più bella del mondo, ma è la nostra Costituzione, impedisce questa cosa qua, d'accordo. Che l'eletto, l'eletto fa le sue scelte, fa il suo destino, fa il suo cammino, indipendentemente dall'origine elettorale, sì, da cui proviene. Questa è la Costituzione italiana. Sia buona o cattiva possiamo discuterne sino a domani mattina, ma questa è la Costituzione italiana. Quindi che un capo partito elenchi 10 punti che ciascun suo rappresentante è una sbruffonata da 4 soldi, come tutto quello che riguarda il Movimento 5 Stelle. Però scusami, qualcuno dice che è come se, siccome il cambio di casacca, i cambi, no, il cambio di casacca non è così, la politica è una cosa diversa, no, d'accordo, però i cambi dei gruppi parlamentari è comunque una malattia italiana, perché negli altri... non è una malattia, è una realtà. Vabbè, però è anche, Ma scusami, se io ti eleggo, tu Peppino Cruciani sei eletto nel partito dei minchionisti europei. Sì, cosa poi probabile, nel partito dei minchionisti europei succedono delle cose, sì, sì, e tu ti dissoci, cammini per le tue strade, vai altrove, altri pensieri, eccetera. Ma non ci sarebbe stata la politica italiana se non fosse stata così. Però tu la metti in maniera molto, Giampiero, buonista. Prego. Cioè tu dici, dici sì, uno c'è, cioè... tu capisci, della classe politica italiana non me ne frega un beato cazzo, assolutamente. Questo per evitare, c'è di Dorina Bianchi, mi pare si chiami così, sì, che ho visto che è stata lì, partiti, in una trasmissione, non me ne può fregare un beato cazzo, sono stato chiaro o sono stato ambiguo? No, molto chiaro. Non è quello il punto, tu difendi un principio, ma ha ragione Mughini, tu difendi un principio che è quello che ognuno, è un principio, è una costituzione, sì, che uno non c'è vincolo di mandato, ma poi c'è anche questo, ma come si fa tu dici io do 150.000 euro a Casaleggio e Grillo se un domani il partito fa una puttanata, è beneficenza. E non posso cambiare idea, ma che siamo matti, che ma è una roba che non sta al mondo. Ma cambiare idea, loro non è che è questione di cambiare idea, loro non hanno nessuna idea, loro si attrezzano ogni volta per il momento e così via, certo, e poi litigano con tutti quelli che hanno un minimo di personalità. No, ma è una forma di estorsione, e guarda che è una forma tecnicamente di estorsione delle idee. Ma non prendono un centesimo, loro non prenderanno un centesimo perché è illegale. Io non posso fare un patto con David Parenzo, David, sì, e gli, sì, dico, sì, tu alla Zanzara devi parlare bene della Juve, di Brigitte Bardot. Non posso fare questo patto. Però scusami, uno come Di Battista, che pare che adesso è venuto fuori come possibile sindaco di Roma, o con possibile candidato, anche se lui smentisce, sì, dice che in realtà è giusto, perché noi dobbiamo porre fine a questa cosa qua delle persone che poi... Ma la smetta di parlare di cose di cui non sa nulla, non ci sarebbe la politica italiana, il PSIUP nacque da una scissione del PSI, la gente era stata eletta per essere socialisti e fare quindi la politica più o meno del Partito Socialista, in realtà nel Partito Socialista c'erano 3 partiti diversi, e uno a un certo punto, ma che cosa vuol dire? Ho capito, Giampiero, ma c'è gente... c'è gente che cambia 4-5 partiti semplicemente per mantenere la poltrona, diciamo ma la verità, non per principio. A loro? No, non è per principio, capito? Non è per principi altissimi. La che si... Costituzione. Vabbè, dici che non mi potete rompere le balle su cose che sono ovvie, vabbè, se c'è la Costituzione. Comunque, per chiudere il discorso, Paolo Emma, su questo tema, ad esempio, cosa penserà Auri Emma su questo? Paolo, ma che c'è? Ma non parliamo degli assenti, parliamo dei presenti. Però a proposito, esaminiamo il caso Parenzo, è risolvibile? Secondo me no. No. Secondo me pure non è risolvibile. No, non è risolvibile. Però a proposito di assenti, Liguori dice sotto Stalin tutti malati di mente, cioè ti ha dato dello stalinista in pratica. Perché... Sì, però è vero che poi ha detto, noi a Paolino perdoniamo tutti. E poi non mi sottometto alla Juventus, questa è... ma che cazzo c'entra? Lui aggrava la sua situazione. Non mi sottometto, ma chi te l'ha chiesto? Non mi sottometto al potere della Juventus. Aggravare, cioè come un imputato che dicesse, sì, non solo l'ho ammazzato, ma ci provavo piacere. No, ma la cosa incredibile è che non mi sottometto alla Juventus. Volevo segnalare al professor Liguori. Non mi sottometto al potere portiere della Juventus. Sì, d'accordo, però volevo segnalare a Liguori che avevano designato per questa partita non uno scalzacani. No, il miglior arbitro del mondo. Hanno designato quello che ha arbitrato la finale dei mondiali di calcio. Ma non ce n'è pure da discutere, Peppino, dai. Ma di che parliamo? No, ma di che parliamo? La cosa che mi stupisce è che tutti, anche l'Associazione Italiana Arbitri, è andata dietro a Liguori dicendo è uno scandalo. Ma uno scandalo di che? Io testimonio a favore di Paolino in tribunale. Per infermità mentale, però. Assolutamente. Ciao, ciao Giampiero, ciao. Ciao, caro. Ciao, Davide. Più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. A Torino, Aniello, ieri abbiamo avuto un Aniello dalla provincia di Napoli, adesso Aniello da Torino, vai, siamo circondati dagli Aniello. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Vai. Complimenti per la trasmissione, complimenti non a Mubini. Non ce ne frega niente, dai, dimmi. È interessantissimo Mubini. Dimmi Aniello. Ascolta, adesso, volevo aprire un universo. Qua stiamo parlando tutti quanti della stepchild adoption. No, non voglio sentire questa parola, stepchild adoption, non voglio sentire niente, dimmi. Si può fare anche, possiamo fare anche la stepdog adoption. Cioè in che senso, scusa? È nello stesso senso della stepchild e la stepdog. Ma cioè, perché devono essere solo tra esseri umani? Non possono essere anche tra un essere umano e un animale, visto il rispetto che nutriamo per gli animali. Questa è una cazzata che forse gli animalisti estremisti potrebbero condividere. Cioè, io adesso non capisco perché. Voglio raccogliere questa tua provocazione, Aniello. Detto che l'unione tra uomini e animali, solo forse l'amico Giovanardi può pensare che possa essere un'evoluzione della società. Perché gli animalisti, se sono così convinti, gli animalisti estremisti, se sono così convinti che l'uomo sia uguale a un animale, non propongono il matrimonio tra uomo e animale? Scusa, la naturale evoluzione della loro teoria dovrebbe essere il matrimonio tra uomo e animale. Cioè, perché no? Cioè, se loro dicono in tutto e per tutto, gli uomini sono uguali agli animali, cioè io sono uguale ad un cane, ho gli stessi diritti, anzi, in alcuni casi sono anche più intelligente e faccio meno danni, perché non arrivano a proporre il matrimonio tra uomo matrimonio e gallina? No, però negli aristogatti, ad esempio, il gatto può ereditare nel cartone animato gli aristogatti. Ma che c'entra il cartone animato? Dai, che ma lascia, io la prendo no, molto anche seriamente. Della realtà, ci sono persone che lasciano tutto ai gatti. Ma io non sto scherzando, guarda che è una cosa molto seria questa cosa qua. Io ti sto dicendo semplicemente una cosa. Gli animalisti estremisti dovrebbero arrivare alla naturale conclusione che è giusto avere in Italia, e non solo in Italia, il matrimonio tra uomo e gallina, tra donna e gallina, e gallo, non può neanche dire sì. Il cane quando si sposa. Per loro sì. C'è gente che fa l'analisi del linguaggio. Chiedilo alla Celentano. Perché la Celentano non si sposa con un cane? L'analisi del linguaggio. Perché la Celentano non si fidanza con un cane? Perché la Celentano, che è bellissima, peraltro. Molto. Perché non si fidanza con un bellissimo cavallo? Ma perché deve fidarsi con un cane? Perché per lei è uguale. Per lei è uguale. L'uomo e l'animale hanno gli stessi diritti, sono la stessa cosa. Perché non si fidanza con un meraviglioso cavallo? Con un meraviglioso gallo? Con un meraviglioso, che ne so, topo? Con una meravigliosa nutria? Perché no? Perché ma no, non puoi dire che fa schifo. Perché dici che fa schifo? È bellissimo. La nutria è oggettivamente schifosa. No, ma io sto dicendo, la naturale conclusione della parità uomo-animale, propagandata dagli animalisti / vegani, quello che vuoi, è il matrimonio tra uomo e animale. Ragazzi, è così, c'è poco da fare. Mirella da Genova, dai. Mirella, dimmi. Uè, sono arrabbiata. Come? Sono arrabbiata, Cruciani. Perché sei arrabbiata, sì, tesoro? Ma cos'è? Una trasmissione pornografica? Beh, ogni tanto sfiora la... No, Cruciani, lasciami parlare. Allora, è un picco meraviglioso quando dici di politica, di Vaticano, meraviglioso. Ma è naturale scendere in particolari. Ma sto squilibrato, che telefona dalla Spezia. Io sono di Genova, la Spezia, telefona dalla Spezia perché ci vuoi mettere in contrasto anche con la Spezia, anche con gli spezzini, amica mia, già abbiamo tanti casini, pure gli spezzini no. Lascia perdere, ma questo era dal dentista, che forse era quello che lui avrebbe voluto fare e che ama la zanzara per dire e scende in particolari, ma è una cosa, voglio dire, che fa importante la trasmissione. No, scusate, vabbè, amica mia, adesso è un intervento all'inizio, ce lo siamo anche dimenticato, un signore che raccontava di una discussione tra due cosiddette MILF su di me, vabbè, chi se ne frega, dai, ciao Mirella, ciao. Quando sento il traffico divento pazzo. La zanzara. You can see the morning. Allora, mi segnalano che in Thailandia adesso arriva il matrimonio a tre, primo caso al mondo. Tre ragazzi sono convolati a nozze nel paese del sud-est asiatico. Molti storceranno il naso, ma la maggior parte capirà l'amore è amore. Però ragazzi, a parte che lo dice il Daily Mail, bisogna sempre controllare e verificare se questa cosa è vera o no. E poi chi se ne frega, la Thailandia vuole fare questa cosa qui? Noi ci opporremo a questa roba qui, cioè chi se ne frega? In Thailandia ammettono il matrimonio a tre? Cazzi loro! Non è che dopo il matrimonio gay c'è il matrimonio a tre, c'è il matrimonio a quattro, a cinque, c'è il matrimonio uomo-animale. Ma torniamo, amici miei, a Reggio Emilia. Torniamo a Reggio Emilia. Perché pochi istanti fa, mentre stavamo entrando in questi studi, abbiamo contattato Alfonso Mendicino, accusato di estorsione in un processo per 'ndrangheta a Reggio Emilia, il quale ha dato del figlio di scrofa a un consigliere regionale, lo ha minacciato e poi ha anche detto, come sapete, come avete sentito, che basta con sta rottura di coglioni di parlare di 'ndrangheta, la 'ndrangheta non esiste, la 'ndrangheta è sempre onesta e grazie a noi cutreesi i reggiani adesso sono signori perché prima invece vivevano come maiali. Alfonso? Sì. Ciao, sono Cruciani da Radio 24, ciao. Ah, mi dica. Senti, volevo dirti una cosa. Ho letto da qualche parte che tu avresti minacciato con delle frasi un consigliere regionale, vero? No, no, non è vero niente perché c'ho anche il messaggio. Allora, mo le spiego perché. Sì, spiegami, dimmi, perché. Dimmi, spiegami. Allora, il signore mi ha contattato alle 5 del pomeriggio, alle 5.35 di mercoledì. Sì. Io alle 5.35 gli ho detto, guarda, a me mi fa piacere che tu mi metti il video su Telereggio. Sì. E poi abbiamo parlato un po' di cutreso. Guarda che noi calabresi dei maiali facciamo le salsicce soppressate, capecolle e pancette. Questo non è bello però. Lui sì. Ieri mattina è andato in questura a dire che io l'ho minacciato giovedì mattina, quella frase là. Sì. Invece no, io quella frase là l'ho detto 2 ore prima che c'era il Telereggio. Vabbè, che vuol dire 2 ore prima? Lascia perdere però, lascia perdere 2 ore prima, 2 ore dopo. Ma che è l'ora esatta o cosa? 5.35, che vuol dire? Gli hai mandato, scusami se te lo dico Alfonso, gli hai mandato delle frasi minacciose o no? No, non è minacciosa questa non è una minaccia, io non ho minacciato nessuno. Scusami, se uno scrive, scusami, sei un porco e noi calabresi con i maiali facciamo le salsicce, le soppressate, i capocolli, le costate, la pancetta, questo facciamo dei maiali noi, che è questa qua? Non è una minaccia, io non ho fatto, io non ho voluto fare una minaccia. Ma mica il menù di Capodanno, scusami questo. È lui che ha voluto far passare per minaccia. Scusami, quindi, se tu scrivi sei un porco, addirittura gliel'hai detto a voce, sei un porco e noi calabresi con i maiali facciamo le salsicce. Amico mio, se non è minaccia questa, non lo so, poi tu... Per me non è, io non lo fa, io non lo intendo come minaccia, io non voglio dire male a nessuno. Scusami, se lo dico io... va bene, ma se lo dici tu, che per carità non è che hai condanne, però hai qualche processino in corso, e uno dice... No, io nel processo dell'Emilia uscirò assolto perché non ho fatto nessuna usura, nessuna cosa. Per carità, ma nessuno dice niente, sei innocente fino a prova contraria. Però ha fatto una truffa, mio amico, una truffa, io ero vicino, non ho neanche parlato, non ho preso neanche un euro, non ho preso niente. Beh, sei però indagato per estorsione, se non sbaglio, no? Sì, però io uscirò assolto. Dopo no, per carità, ma lo auguriamo, ma è estorsione, amico mio, però estorsione. No, insomma, se glielo dici in questo modo, quello è chiaramente una minaccia, sei un porco e noi che calabresi con i maiali facciamo le salsicce, amico mio. Io mi sarò espresso male, però per me non è una minaccia, io non minaccio nessuno. Scusa, gli hai mandato anche un altro messaggio che io ho ascoltato, in cui tu dici sei un porco, sei un maiale, sì, tua sì, madre... Sì, sì, sì. Quella che cos'è invece? No, perché lui mi metteva dei messaggi sul suo sito, che sul web, e io quando rispondevo me li cancellava. Perché me li cancellava i miei messaggi? Vabbè, ma ho capito, ma lascia bene, ognuno può cancellare quello che vuole. Le sue accuse andavano bene, le mie no. Tutto nasce da quello che tu hai pubblicato, dal video che tu hai pubblicato sul tuo sito Facebook, no? Sì, in cui parli dei cutresi e degli abitanti di Reggio Emilia. Lui ha pubblicato questa cosa sul suo sito e ha detto, ragazzi, sentite quello che dice questo signore, punto e basta. E le parole che ha scritto lui. E che ha scritto? Le accuse, e c'è un parassita, quello, quell'altro. Ma non lo so, un parassita, non so che cosa ha scritto. È giusto che lui mi chiama parassita, scusa. Ma io non lo so se ti ha chiamato magari parassita. Magari non è giusto, ma dire che riduci una persona a carne di porco... No, questo non l'ho detto, Scusami un attimo, nel video poi, che io ho visto molto attentamente, perché dici questa cosa che l'andrangheta non esiste? Non è che non esiste, però pure che esiste, loro ci hanno mangiato i reggiani. Ma quella hai detto. Allora diciamo insieme fanculo l'andrangheta. No, questo vai. E perché? E come no? Fanculo l'andrangheta, urliamolo! Vaffanculo all'Andrangheta. No, no, no, questo mai. Come questo mai? Ma diciamolo, vaffanculo all'Andrangheta, da pezzi di merda. Ma scusa. Comunque il politico avrà le sue conseguenze tramite la questione. No, ma lascia stare. Perché non vuoi dire con noi fanculo l'Andrangheta? È importante perché questo. No? No, no, no, no, non lo dirò mai nella mia vita. Ma perché l'Andrangheta fa anche delle cose buone? La saluto, arrivederci. No, ma come la saluto? La saluto, non c'è niente da aggiungere. Ma che saluti, amico mio? Oh, amico mio, no, amico mio, no. È finita malissimo in questo modo. Non ha voluto dire vaffanculo l'Andrangheta. Non lo dirò mai. Pazzesco. Non lo dirò mai. Vabbè ragazzi, Alessandro da Firenze, vai, 800 24 00 24, WhatsApp 393 71 71 701. Alessandro, vai. Ciao Ciancio Parenzo. Intanto fanculo l'Andrangheta perché sempre, sempre, tutta la vita fanculo l'Andrangheta sempre. Poi ti volevo dire che in realtà la tua posizione sull'incoerenza tra Pirellone e Sanremo sinceramente non la capisco, perché a Sanremo andati possono entrare anche con una maglietta scritto no cirinà o fanculo agli omosessuali. In Pirellone in realtà c'era una facciata con scritto Family Day, ma non è che nell'altra potevamo scrivere no Family Day. Mm. Quindi su questo non sono d'accordo con te sinceramente. Alessandro, guarda, certo che i cantanti sono liberi di esprimere l'opinione, anche Maroni è libero di esprimere la sua opinione, per no, carità, però non utilizzando è la stessa cosa, ogni cantante può dire quello che vuole, il problema è che siamo a Sanremo e se qualcuno, infatti non me la prendo con chi lo fa, cioè io me la prendo con l'ipocrisia, cioè se uno ha criticato Maroni, se uno ha criticato Maroni perché ha utilizzato il Pirellone bene pubblico per dire no alla Cirinnà, sì al Family Day, ti devi incazzare lo stesso, perché Sanremo, posto pubblico per eccellenza, forse anche più del Pirellone, viene utilizzato okay, ma per dire sì alla Cirinnà e vaffanculo a quelli adesso, questo ma lo dico per io una ovviamente volta che a Sanremo puoi dire sì alla Cirinnà o l'onna Cirinnà, perché ma che è, ma guarda, si va a cantare, ma che è un dibattito sulla famiglia di, dai su, ma ha trovato ridicolo anche le domande che hanno fatto i Puh ieri o altre cose che vengono dette così per fare un balletto. Vabbè, ma lì è normale che gli artisti parlano un po' di tutto, dai, mica devono solo cantare, glielo si chiede da sempre. Vabbè, tutto Alessandro, il mondo, ciao, Sabato da Salerno, Sabato, ma Sabato che è un nome? Sì. Di nome di battesimo? Sarà nato di Sabato. Il nome, si vede. Il nome di battesimo. Sabato. È nato di Sabato, immagino. Ma dai, su, Sabato. Ma comunque volevo dire che io sono incazzato con alcuni elementi del Riccardo da Roma. Ma chi se ne frega, sì. Dai, su, sei incazzato con alcuni elementi. C'è un attacco del Riccardo da Roma. Addirittura vanno a pescare delle foto dal profilo di Parenzo. Secondo me è una cosa per cui Parenzo si dovrebbe incazzare. Ma più ce ne possiamo fregare altamente di quello che succede, di quello che succede su Facebook, oppure che non guardo mai io questa cosa. Vediamo adesso. Vabbè, dai, Sabato, che vuoi? Vabbè, poi comunque volevo dire che secondo me Liguori ha comunque ragione ad essere abbastanza scontato. Vabbè, ma tu sei anti-juventino a favore del Napoli, dunque dici che Liguori ha ragione. Vabbè, tutto scontato, dai, tutto prevedibile. Ciao. Allora, ad Aci Reale, signori miei, ad Aci Reale cosa accade? Hanno indagato per aver beggiato. Sì, aver truffato sugli ingressi, sulle assenze. Si facevano timbrare il cartellino da altri, eccetera, eccetera. Hanno indagato una sessantina di persone, 600 dipendenti comunali. A me queste cose mi fanno sempre schifo. Vabbè, il 10%, no? 600 dipendenti su 60, il 10. Alcuni di questi qua sono agli arresti domiciliari, 3 persone. Altri invece hanno il famoso DASPO. Il famoso come DASPO. Come per gli stadi. Sì, cioè devono passare in questura prima di entrare in ufficio e dopo all'uscita dell'ufficio. Incredibile. Allora, ho visto che una delle persone che hanno l'obbligo di firma, ma uno si dovrebbe vergognare ad avere l'obbligo di firma, poi magari non è vero niente, si chiama Pietro Valerio. Vogliamo provare a chiamare il signor Pietro Valerio a casa? Alcuni? No, alcuni addirittura hanno cercato di disattivare la telecamera perché la telecamera li inquadrava, altri strisciavano il badge per i colleghi assenti. La solita vergogna, dai, in tutti i comuni italiani succedono cose, in molti comuni italiani. Chiamiamo a casa di questo Pietro Valerio, vediamo chi risponde, vai, se lui o qualcun altro. Pronto? Sì, buonasera, cercavo il signor Pietro. Non c'è momentaneamente, lei è, mi scusi. Buonasera, chiamo da Milano, sono del Sole 24 Ore, salve, buonasera. Buonasera. No, siccome abbiamo saputo qua di questa vicenda, no? Di, del comune di Acireale, di quelli che vengono chiamati i furbetti del cartellino. Mi dica. No, volevo parlare con suo marito, signor Pietro? Sì. Volevo capire se era vero, se non era vero, se sono inventati tutto, sai, le indagini sono sempre quelle che sono, no? Guardi, io non gli saprò dire niente per questo fatto. A lei che c'entra? Lei è la moglie. Io sono la moglie, ma comunque non c'entro niente. Ma no. Qua da Cireale, una cosa piccola poi, la fanno diventare grande. Eh beh, certo. A coda ruppa ruppa, ci mando vento, non ci cuppa. Perciò, più di questo non gli posso dire. Non ho capito, ancora scusi. Dobbiamo, ancora si deve vedere tutto. Può ripetere però quello che ha detto, che non a Cire cucca, com'era? A coda ruppa ruppa, ci mando vento, non ci cuppa. Ah, ho capito. Ci vai di mezzo chi non ha colpa, giusto? Chi non ha colpa, perfetto. È la parte iniziale, la traduzione, scusi, della parte iniziale che non ho capito niente? La corda con i nodi, a corda ruppa ruppa, ci vanno mezzo con non ci curpa. Mi traduca esattamente, perché io sono, per carità, capisco una parte, un po' il siciliano, ma non tutto. In mezzo a tutti gli altri, ci vanno di mezzo quelli che non ci colpano. Oh, e suo marito non c'entra niente? No. E perché gli hanno messo l'obbligo di firma, prima e dopo il lavoro? Vabbè, ma queste sono cazzate. Tutte cazzate. Ma dov'è suo marito adesso? Per andarci, penso, ma non è che ci colpa. Non ci colpa, questo glielo dico io. Cioè, lui andava sempre in ufficio, non faceva trucchi col cartellino, niente. Ma mio marito non faceva neanche. Anzi, mio marito aveva bisogno di una stanza per conto suo, della malattia che ha. E mio marito, per essere troppo buono, neanche questo ha fatto. Ma perché? Che malattia ha suo marito? Scusi. Perché mio marito deve stare in una stanza da solo. Da solo? E come perché? Mai? Che ha fatto? Guardi, non ne parliamo più, la saluto, arrivederci. Buonasera. No, ma il bello è che quando tu chiami a casa di persone coinvolte nella vicenda dei furbetti del cartellino e tutti quanti dicono no, ma io lavoravo tantissimo, pure mio marito è un gran lavoratore. Cioè, è chiaro che non è che si presenta qualcuno che alza le mani che dice sono colpevole, questo non ce lo possiamo aspettare, appunto. Certamente. Però tutti quanti sono... Non solo sono degli onestissimi lavoratori, ecco. Ma lavorano anche il triplo di quello che infatti, devono lavorare. Da questo punto di vista avrebbe fatto un encomio ai nostri amici rom, perché invece lì avviene esattamente il contrario. Che quando, succede con i rom? Quando tu vai in un campo rom e li intervisti e gli dici: scusi, lei ha rubato? Certo, non ruba, ruba per mangiare. Cioè, meglio i rom dei furbetti del cartellino. Da un certo punto di vista, almeno questi non ti dicono bugie. Però se vai lì, guarda, 9 su 10, noi giornalisti valenti, dice: scusi, ma qui c'è ruba? Ruba se ruba, ma per mangiare. Quelli dicono la verità, almeno ammettono, no? Ammettono di essere ladri. No, qualcuno, quelli che sono. Dicono che rubano, scusa. Sì, ma che palle però, e prima il traffico, e poi la borsa, e poi la pubblicità, e poi il telegiornale, oh! Ma noi vogliamo sentire la zanzara, mica ste cazzate. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La zanzara. Avete notato la somiglianza tra Parenzo e il personaggio della serie romano criminale Ranocchia? Coincidenze? Non credo proprio. Parenzo, ti passo il mio compagno, ti vuole salutare. Parenzo, sei un figo. Bagnasco, palese e non segreto, il nome dei preti pedofili. Ciao Cruciani, ma sei proprio turbato da questa chiesa, ho con la M davanti. Ma chi se ne frega del cardinale Bagnasco? Ma ci abbiamo le pezze al culo qua con l'economia e tu pensi al cardinale Bagnasco? Allora ragazzi, intanto il nostro meraviglioso istituto, anzi AIDS, Associazione Italiana dei Sondaggi, è andato il nostro sondaggista preferito, è andato a Calascibetta, se non sbaglio, provincia di Enna, a cercare di capire cosa ne pensano gli abitanti di Calascibetta della parola eterosessuale, soprattutto sanno cosa significa la parola eterosessuale, gay, eccetera eccetera. Sentiamo. Pronto? Sì, buonasera, qua l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Le posso rubare solo 30 secondi? Vedi. Lei cosa ne pensa degli eterosessuali? Le donne non magari fastidio a parlare. Cioè, lei non è favorevole ai matrimoni tra eterosessuali? Assolutamente, io intanto sono un grande cattolico. No, no, io sono per la famiglia normale. Senta, se due eterosessuali si baciassero davanti a lei ma per strada... Già mi fa schifo... Che certe volte in televisione cercano di mettercene. Ora sono messo a fare queste fiction, capigliano do caruso, do picciuttazzo, do cose, già mi dona fastidio, cancio canale io. Perché mi dona fastidio questo. E ci sono le femmine che sono una bella cosa. Le femmine da ogni punto sono femmine, qua. La donna è la cosa più bella di questo mondo. Lei conosce qualche eterosessuale? No, no, assolutamente. E mai me ne hanno incontrato per strada. Visto che io al momento 70 anni. Le fanno un po' schifo, insomma. Mi fanno a brezzo. Probabilmente mi svuoto il sonno. Mondo. Lei, signora, è favorevole alle unioni eterosessuali? No, no, no. E vogliono i figli degli altri per farli figli suoi? No. Pronto? Mi può dedicare cortesemente 30 secondi? Allora, se 30 secondi... Che cosa ne pensa, signora, degli eterosessuali? La domanda è molto complessa, ma voglio dire... Però se due eterosessuali si baciassero davanti a lei, le darebbe fastidio? Penso che il buonsenso è... Insomma, evitare magari scene e fusioni per due donne o per due uomini davanti agli altri. Lei conosce qualche eterosessuale? No, no. Pronto? Sì, buonasera, qua l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Prego, dica. Lei che cosa ne pensa degli eterosessuali? Sono quello che sono, c'è poco da pensare. E in che senso? Sono quelli che sono. Sono persone che esistono. Ma lei è favorevole ai matrimoni tra eterosessuali? No, no. Se due eterosessuali si baciassero davanti a lei, le darebbe fastidio? Beh, mi volterei dall'altra parte. Lei è stato molto gentile, la ringrazio. Prego. Arrivederci. Cioè, tu capisci che se mancano le basi per la parola eterosessuale, non è compresa, non è capita. Cioè, non sa, le la persone, gente non le sa. Persone confondono etero con omo. Però è professionale questo istituto di sondaggi. Perché non dovrebbe usare, non dovrebbe usare a questo punto la parola eterosessuale. Gay. Perché gay, sì, dovrebbe sì, usare. Penso di sì, no, ma... Frocio, dice, più semplice. No, ma no, non hai capito ancora. Che non si dovrebbe usare la parola eterosessuale, perché la parola eterosessuale non la capisce nessuno. Nessuno, nessuno sa che cos'è. Questi pensano subito che cioè, sia noi siamo rapporto... eterosessuali. Certo, noi vabbè. Siamo eteros, cioè noi ci piacciono quelli dell'altro sesso. Alessandro da Milano, dai. Pronto? Dimmi, ciao, Alessandro, Cruciani. dimmi. Ascolta, volevo solo dire che hai detto una emerita cazzata per quanto riguarda l'unione tra uomini e animali, secondo me. Ma può darsi che abbia detto una cazzata, non lo so, ho detto, non mi sembra una cosa abbastanza scontata. Beh, insomma, cioè, l'animale ha bisogno di essere difeso dall'uomo, non ha bisogno di sposarsi con l'uomo. Tu l'hai detto solo per provocare, chiama gli animali. No, Alessandro, scusa, se uno pensa, scusami, se uno pensa, davvero, fino in fondo, io ho detto gli estremisti animalisti, infatti, non ho detto tutti, se uno pensa che siano esattamente come gli uomini, e allora dovrebbe proporre il matrimonio tra uomo e animale. Amico mio, è così, è molto semplice. Devono solo essere protetti dagli uomini, perché... Vabbè, ma tu, infatti, mica ho detto che tu... L'animale è istintivo e basta. Sì, ma lascia perdere, io non ti sto dicendo, a parte che già tu attribuisci all'uomo no, la cattiveria, all'altro l'istintività, come se ci fosse come dire, una differenza di valori da questo punto di vista. Io ho detto semplicemente, caro Alessandro, che da una parte abbiamo l'animale, dall'altra parte l'uomo. Per me c'è una differenza, per alcuni la differenza non c'è, e dunque è naturale che uno possa proporre il matrimonio tra uomo e animale. Che c'è, Parenzo? Che c'è? Che sbuffi? Stai sbuffando? Che stai? Ho avuto un colpo di tosse. Cosa pazzesca. Orfeo, provincia di Perugia. Che c'è, Alessandro? Dimmi, che c'è? Alessandro. Per me non è d'accordo, lui che è un puritano puro. No, ma è chiaramente puritano, un'esagerazione. Puritano, che vuol dire, puritano? Vuol dire puritano? Cioè, lui non pensa al sesso, non ha mai in mente di... Cioè, non lui pensa al sesso, che non sai? Ha mai visto un film... Non penso al sesso in diretta... Non penso al sesso in diretta radiofonica. No, sì, come no? Tu pensi al sesso anche in diretta. Sì, no, non pensi mai al sesso quando sei qui in diretta, sì. No, sì. Sono concentrato su altro. No, non è appunto, quello sesso. Sicuro, quello si vede che sei ma concentrato su altro. Ma non è che guardo YouPorn qua... Ma no, ma che compulso. C'entra? Guardo le notizie, guardo si il flusso pensa sempre al notizie. Sesso, si pensa sempre tu al sesso. Tu hai al sesso adesso? Io sempre penso al sesso. Ma l'hai mai visto un film porno, Parenzo? Sì, a voglia. Chi sono i tuoi attori preferiti? No, anzi, ragazzi, porno avrò visto degli dei pezzettini di alcuni film, ecco, 20 secondi. Ho come visto 20 i film, secondi? Ma non è che guardo un film porno, non è che mi eccita, guardo un film porno. Io posso, ho visto i film erotici invece, ad esempio, perché è molto diverso. Ah, sì, no, io i sì, film sì. di Tinto Brass, ad esempio, li ho visti tutti, ma l'erotismo è un'altra cosa. La pornografia di questi che vanno yeah, yeah, fuck me, yeah, like this, yeah, oh, great, great, great, oh, it's so big. Ma che cazzo, ma che roba è? Ma tu stai negando l'arte, ma la poesia dei film porno, ma dillo a Mughini. Altra cosa, dillo a Mughini. Ma infatti gliel'ho detto già a Mughini, che si ma dillo a Mughini, con la ma... dolce nera, come si chiama lì, la Venere no, nera? No, non più, come adesso ce n'è un'altra che però, è innamorato di un'altra. Tori Black, ecco, così quella si chiama, Tori Black. Black, poi adesso invece è subentrato film un'altra erotici, nel suo sì, film porno, nel no, suo no, ho visto 20 secondi un film porno, cosa c'è da vedere un film porno? Ma tu non capisci niente, tu pensi che veramente il film porno sia solamente... Ah sì, ma non c'è nessuna storia, nessun plot, nessun niente, non c'è... È anche girato, ma che cosa vuoi vedere, un film porno? Che storia c'è? Dai. Su. Alessandro, che dici? Alessandro, niente. Dimmi. Che dici? Non l'ha visto? Ha visto pochi film porno. Erotici, mi spiace, sì. Ma non ha cultura, gli mancano le basi. Tu, gli mancano le basi assolute, gli mancano tutte le basi. Tutte le basi. Ciao, Orfeo, provincia di Perugia. Ciao, ha parlato Orfeo. Lucchino Visconti. Sì, pronto? Dimmi, pronto? Orfeo, dimmi. Buonasera. Allora, io volevo intervenire perché sono io sono non credente. Ma chi è questo? Mario Orfeo? No, che Mario Orfeo? Orfeo di nome, vai. E mi interessa molto poco il discorso sui dico su tutto quanto. Però io sono nauseato da come questa vicenda venne strumentalizzata a Sanremo. Veramente questi signori che di fatto stanno tenendo tutto, perché anche in Parlamento avranno il voto palese, avranno il voto segreto per le forzature, per tutto quanto, con un presidente del Senato che credo che assieme alla Boldrini sia uno dei peggiori che abbiamo avuto. Ancora non sono soddisfatti, fanno queste cose a Sanremo che sono veramente assurde, guarda. Ma non sono soddisfatti chi? La lobby gay? Chi? La lobby che vuole questa cosa, la lobby che è in Parlamento, io non ho detto lobby gay. Chiaramente... Lobby che è in Parlamento, ragazzi, se ci fosse veramente la lobby delle unioni gay, da mo che sarebbe approvata la legge sull'unione di fatto, non diciamo cazzate, dai, su, se c'è un movimento che appoggia questa roba qua, come c'è naturalmente, non è stato finora così potente, o comunque la Chiesa ha pesato molto molto di più, non si preoccupi. A proposito, non si può non concludere questa settimana, caro Parenzo, con Fanzaga. Non si può non citare Fanzaga. Don Livio. È venerdì, il quale ha avuto l'ardire di pronunciare oggi ancora delle parole, dopo aver detto delle cose indicibili nei giorni scorsi. Ha detto che la gente è contenta di sapere come la pensano i vescovi. Cioè, capito? La gente, secondo lui, è contenta. Cioè... Io credo che... Vabbè, però è forte, dai, fa il suo mestiere. No, che ma io lo fare? Adoro da questo punto di vista. È un grande condottiero. È il Cruciani di Radio Maria. No, adesso non per favore, dai. Il no. Varin di Radio Maria. Però, ragazzi, non si può dire la gente è contenta di sapere come la pensano i vescovi. Perché alla gente normale, quelli che ci stanno ascoltando, ma non solo quelli che ci stanno ascoltando, ai pezzi d'Italia veri, cioè agli italiani, di come pensa, di quello, scusa, che dice, ma quello Bagnasco, è il direttore di Radio Maria. Non frega un cazzo. Ma tutti, ma è quello il direttore di Radio massa. Maria. È il direttore di Radio Ho Maria. Capito, ma non può dire che la gente è contenta di sapere. Ad esempio, io ritengo che in questa radio la gente sia contenta di ascoltare ogni giorno le parole degli imprenditori, ad esempio. Fanzaga. La gente invece è contentissima di sentire come la pensano i vescovi, e come no? La gente è contentissima di sapere come la pensano i vescovi, anzi, se si lamenta è che parlano troppo poco. Questo lo dico con tutta chiarezza. Con tutta sincerità, che arrivano qui email dove si vorrebbe che ci fosse una maggiore partecipazione del dibattito da parte della Chiesa. E non ho capito, le mail che arrivano a Radio Maria sarebbero indicative di quello che vuole il paese! Non è possibile, non è possibile. Ancora, non è ingerenza della Chiesa. Vabbè, questo è normale che dica che non è ingerenza. Non è ingerenza questa. Questa è semplicemente difesa dei diritti del Parlamento, ma anche dei cittadini. Cioè, sui temi fondamentali è giusto che ci sia una votazione a scrutinio segreto per tutelare la libertà di coscienza. Ragazzi, non ce la posso fare, dai, non ce la posso fare. A proposito di vegani, però, stasera faccio un mischione pazzesco. Diana del Bufalo, io l'adoro. Diana del Bufalo, ah, beh, sì, certo. Attrice, eccetera, eccetera. Diana del Bufalo, meravigliosa. Sono vegetariana, di salsiccia mi piace solo quella umana. Ed è molto più salutare, credetemi. Signora del Bufalo. Signora del Bufalo. Alle 20.47 del venerdì, la signora del Bufalo. E voglio accompagnarvi verso la fine di questa trasmissione con il mitico Viperetta, il quale ha mandato a fare in culo i giornalisti perché gli hanno chiesto: ma scusi, la Sampdoria può fare la fine del Parma, cioè può fallire? E lui ha mandato a fare in culo. Non a fare la fine del Parma. Non è capace di andare a fare in culo. La ringrazio e le auguro una buona giornata. E vorrei concludere con qualche voce di fedeli, tanto per finire bene la settimana, di fedeli mentre erano in processione a sentire, anzi a vedere, a cercare di toccare la salma, quella tutta siliconata di Padre Pio, no? La salma siliconata di Padre siliconata, Pio. Cioè. Sì, quel cadavere ambulante. Signor Padre Pio. Padre Pio, tutto finto, no? Tutto finto. Ma lasciamo perdere, dai, abbiamo già dato sul Padre Pio. I fedeli in coda nella massa, sentite. Il Parlamento sta approvando le unioni tra persone dello stesso sesso. No, per me è sbagliatissima cosa del genere. Sbagliatissima. Che sa che sarà, l'ha rovinato l'umanità. Purtroppo io non so perché magari uno nasce omosessuale, forse potrebbe essere magari che ci nasce, oppure magari è la roba che ci mangiamo. Tutte queste cose qua, perché oggi è la roba che te mangi. I gay diventano gay per quello che mangiano. Non si possono giudicare i gay, perché se si nascono così non è colpa loro. Ah, dice che si nascono così. Qua forse, cioè, non siamo medici, però io dico che nascono. Di che campo è la medicina? Cioè, un tipo, una deviazione in qualche modo? Secondo me sì, io sono convinta di sì. Ancora, ancora, ancora, fedeli adoratori di Padre Pio, adoratori di Padre Pio, eh? La pena di morte. No, qui. Gli darei. A chi? A quelli del PD. Ah. Ci è rimasto male, vero? No, no. Ci sei rimasto male. Beh, adoratori di un uomo che vuole esprimere compassione. Padre Pio. Pena di morte a quelli del PD. C'è sempre stato un padre e una madre. Ma anche se fosse un modo per togliere i bambini dagli orfanotrofi? No. Meglio negli orfanotrofi. Meglio negli orfanotrofi. Allora, concludiamo con Francesco da Roma. Vai, Francesco, dimmi. Francesco non c'è. Francesco dalla provincia di Bari, vai, non c'è. Ragazzi, chi cazzo c'è? Dai. Alessandro dalla provincia di Varese, dai. Non c'è un cazzo di nessuno, dai, andiamo via. Alessandro, basta. Dai. Buon weekend, grazie. Alessandro, Pierluigi, Padova. Non c'è. Chi c'è? C'è nessuno, sono tutti morti. Ma che cazzo mi scrivete qua? Sono morti tutti, dai, andiamo via, va. Arrivederci. Fanculo, va. Saluti. Ci sentiamo lunedì, ciao. Ciao. Questo è spettacolo. Show must go home. Senti, io chiuderei qui, ma vattene a far culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.